YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. E buona vigilia di Natale a tutti. Che bello, che la bello. Terza ora del sabato del villaggio che vi ha tenuto compagnia anche alla vigilia di Natale, diciamo la verità. Sì, allora, abbiamo scelto di fare una puntata nuova, di tenervi compagnia alla vigilia di Natale, perché abbiamo pensato a tutti quelli che sono in auto, sì, che stanno cercando i regali, che stanno lavorando, esatto, che stanno andando in vacanza e quindi stanno viaggiando verso, sì, le destinazioni. E quindi, sì, detto, c'è tanta gente che ha bisogno di una trasmissione. Ma poi la vigilia è bellissima, il sabato, sì, del villaggio è bellissimo, bellissimo. Cioè, qui è un Uber sabato del villaggio, la vigilia di Natale. Allora, siamo qui con Marta Natale, et Marta Cagnola, et di Bellasio. Bene con Babbo Natale. Sì, è vero, dopo ma lo devi col Babbo Natale. Twittare, che c'è scritto You used to call me on my cell phone, che è una parodia di una canzone. Invece molto you bello. Used to call me on my cell phone, dice Elfo, il mio telefonino degli elfi. Vabbè, ma spiegata, sì, la radio. Ma ce l'hai anche con l'arenna, quello tipo Hugh Grant? Ho il cappello con le corna d'arenna. Il cappello con le, sì, corna. Sì. Stupendo. Bellissimo. Bellissimo. Sì, un cappellino di lana con delle cornine d'arenna. Allora, noi in questa puntata facciamo dei mini brevi bilancini. Sì. Vi raccontiamo un po' di cose belle e poi abbiamo un super, super, super, super ospite. Ma proprio quindi super, voi però dovete stare lì incollati. Non dico mai questa cosa che dicono i conduttori, però voi restate lì perché nella seconda parte sopportate la prima parte. Cosa possa essere, possiate essere incollati. Sì, così dice, incollati al televisore, buttate il telecomando, sì, dicevano, esatto, una volta. Adesso non c'è più neanche il telecomando. No. Non so, state lì perché proprio un ospite di quelli, non vi dico niente, però no, sarà molto tutto interessante. Molto interessante. Allora, ma come siamo proprio originalissimi per far capire. Comunque molto interessante. Partiamo come? Partiamo con una bellissima canzone, sì, una bellissima, brava, notizia. Facciamo, sì, sentire qualche nota di, vai, questa canzone, Paolo. Natale ha senso se tu sei con me. La festa è pronta e sai che c'è. Allora, la canzone di Natale è molto carina, ma soprattutto ha una storia veramente bella. Intanto è diffusissimo ormai su YouTube perché ha passato il milione di visualizzazioni, ah, e questa, però, cosa è molto bella. Sì, sono proprio contenta perché, insomma, con tutte le cose divertenti ma un po' oziose che ci divertiamo a condividere in rete, questo invece è un bellissimo progetto. Allora, Palle di Natale, Smile, It's Christmas Day è la canzone di Natale realizzata dagli adolescenti del progetto Giovani della pediatria oncologica della Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Ci sono degli artisti bravissimi che hanno scritto questa canzone, come Federico Slaviero, il maestro Nicolò Fragile, e poi Stefano Signoroni, Giacomo Ruggeri, Tommaso Ruggeri, Jacopo Sarno, Andrea Vigentini, Marco Scipione e Massimiliano Paganin. Coordinamento artistico di Stefano Signoroni. Perché volevo dire tutti questi nomi? È perché è un progetto molto bello. Sì, guardatelo, cercatelo, guardatelo. La canzone è carina, ma c'è anche la storia. Sì, sì, video. Ci sono 29 ragazzi tra i 15 e i 25 anni, 18 sono ancora in cura e 11 fuori trattamento, anzi diciamo così, 11 sono fuori trattamento e gli altri 18 lo saranno presto. Prestissimo, e vai! È veramente bello, guardatelo. Sì, sì, condividetelo. È una cosa che ti apre il cuore. Ma sai cosa è successo questa settimana? Una cosa che non succede proprio tutti i giorni, no, però ogni tanto succede. E voi vi ricorderete Bruno Vespa quando, ovviamente un po' fintamente, perché lo sapeva, insomma, non è che ti chiama all'improvviso. Io credo a Babbo Natale, vuoi, sì, che non creda alle telefonate del Papa? O a Bruno Vespa. Se credo nell'esistenza di Babbo Natale, vuoi che non creda all'esistenza di Bruno Vespa? Sì, anche perché no, sai, appunto, cioè, io poi l'ho già raccontato una volta, io sono una fan di Bruno Vespa per una questione biografica. Perché? Tu non la sai questa cosa. Sì, allora, quando io ho finito la scuola di giornalismo, sì, ho mandato in un giorno 51 curricula in un giorno. T'ha risposto uno solo? L'unica persona, no, ho ricevuto una mail. una lettera scritta. E l'unica telefonata che ho ricevuto è stata quella di Bruno Vespa. E quella ti ha chiamato, eri emozionata quasi come... Io pensavo fosse uno scherzo, dai, ti telefona Bruno Vespa. Sì, era tipo Staffè, no, non è sì, che te lo fa... Scherzi a parte, una roba di Striscia che ti chiamava... Vabbè, in questo caso invece è Uno Mattina, che facciamo gli auguri, compiva 30 anni la trasmissione. Certo, Uno certo, Mattina certo. 30 anni, mamma mia, incredibile. E c'era Francesca Fialdini. Che è molto brava, è molto bella. Intanto ci scriviamo su Twitter delle cose carine, molto carina. E poi c'era Franco Di Mare. Bravo. Ma soprattutto c'era? Senti. Sentiamolo. Ma io vi auguro un Natale cristiano, come è stato fatto il primo, quando Dio ha voluto capovolgere i valori del mondo. Si è fatto piccolo in una stalla con i piccoli, con i poveri, con i marginati, la piccolezza. Questo mondo dove si adora tanto il Dio denaro, che il Natale ci aiuti a guardare la piccolezza di questo Dio che ha capovolto i valori mondani. Vi auguro un santo Natale e felice. Hai capito? Che meraviglia! È arrivata la telefonata di Papa Francesco, Francesca Fialdini e Franco Di Mare, che salutiamo, tanti auguri, per i 30 anni, per Natale. Però adesso noi volevamo, siccome io è dall'inizio di quest'anno che ti... Che esprimere proprio, un desiderio. Sì, un desiderio, ovviamente tu puoi capire da chi è ispirato e molti papà lo capiranno da chi è ispirato. Dunque, io vorrei nel 2017, se possibile... parlare con Matt avere e Bise. Degli ospiti Matt e Bise. Tu li conosci Matt e Bise? Io li conosco, nel senso che ho visto i loro video, però so che sono molto molto amati dai ragazzi, quindi è un appello. A Matt e Bise. E allora per lanciare, perché se no il figlio di Daniele, dopo ne torniamo a parlarne dopo, ma senza parlare del figlio parliamo del fatto che loro potrebbero venire, sono bravissimi, fanno questi video, fanno le parodie, non so, sono indefinibili, sono vivaci, sono Matt e Bise. Allora per lanciare meglio questo appello abbiamo preso un pezzo di un'intervista doppia alle Iene, nemmeno tanto fresca perché è di un po' di tempo fa, secondo me 2015, però sono... chi se ne frega, Matte Bise, Bise va? No, mi lasciare, amore mio, ti amo, afferra la mia mano. Signori e signori, Matte Bise, ma in realtà Matteo Valentino. Perché la gente vi conosce? Perché facciamo dei video sul web, YouTube, Facebook, che facciamo i cretini così sul web. Di dove siete? Torino. Tra di voi chi è il più bello? Io. Il più ricco? Lui di sicuro. Il più alto? Ovviamente io. Lui, ma di poco, di poco. Il più bravo letto? Io, non c'è dubbio. Perché siamo mai detenuti insieme? Facebook o YouTube? Bella domanda, Instagram, Facebook. Descrivi il web in tre parole. Una bella opportunità. Scrivo, ai mi piace. Bise, lo sai che sono quattro parole? Cosa ne pensate di i Pantellas? Bellini, alti. Fabi J. Ricciolo, ricco. Wilbush. Dov'è Wilbush? Qualcuno ha visto Wilbush? Wilbush non c'è. Penso lavoro in radio, però ciao Wilbush. Frank Matano. Frank! Aspetta. Matte! Frank! No, Matte! Povero Paolo Brosio. Matte Bise. Fanno schifo al cazzo, non guardateli, non sanno fare niente. Comunque non credo fosse un'intervista, cioè era stile Iene, non credo fossero alle Iene davvero, però era tipo Iene, adesso non me lo ricordo, però sì, era del 2015. E comunque adesso ho visto che Wilbush fa Grease, mi pare, può essere. Cioè? Il musical? Sì, fa il musical. A teatro? Sì, fa il musical. Vabbè, però. Vedi, i piccoli, come si dice, i piccoli youtuber crescono. Senti, abbiamo bisogno di dare qualche informazione in questa vigilia, o sì, no? Sì, se vuoi non le diamo, sì. No, ti vedo scettica. No, diamole. E diamo le informazioni sul traffico e poi ci ritroviamo qui, parliamo un po' di ancora un po' di bilancio e poi, uno sport. Prima parliamo di sport e poi uno spitone molto interessante. Radio Tube. E torniamo insieme un po' con quello che ci ha colpito molto quest'anno in questa vigilia di Natale, nella quale vi stiamo tenendo compagnia come sempre col nostro RadioTube. Diciamo che il prossimo sabato e quello dopo ci saranno due meglio di. Come e hai fatto? Come ogni anno. Sto dicendo, è come ogni anno Daniele Bellasio diceva. Diciamo che c'è un meglio di... c'è il nostro Cristian Goldoni che ha scelto. Secondo me sono tutte parti in cui ci sei solo tu, perché non è possibile che io sia entrato in un meglio per sbaglio. Chi lo sa. Allora, dunque, tu devi personaggio sapere... dell'anno, secondo no, te? No, esageriamo. No, il personaggio della fine dell'anno è ovviamente il nuovo premier... Paolino Gentiloni. Ma è il personaggio lui o quello impersonato? Allora, tu sai che noi a RadioTube abbiamo una regola: dalla parodia si capisce qual è il grado di successo, di importanza, di incidenza sul reale, come dire, umore del paese. Allora, la parodia punto, per antonomasia dei politici la fa un amico di Marta Cagnola. Non è un amico, è che a me lui piace tanto, non e ci quindi, posso fare allora, niente. Per valutare com'è il nuovo premier Gentiloni, noi dobbiamo ascoltare l'imitazione che di lui fa Maurizio Crozza. Molti dicono che lei sia solo un burattino di Renzi, ma è davvero così? No, non è così. Ok. Mi aspettavo questa domanda sì. Ho dunque preparato una risposta scritta che ho personalmente vergato sì. di mio pugno. Mamma mia, sì. Signori miei, sì. E mi rivolgo in particolare a tutti i gufi e rosiconi. No, scusi, è strano, non è il suo stile. No, scusi, ma è sicuro di averlo scritta lei? Perché lo stile ricorda un po'. Assolutamente sì. Ma, va bene, vado avanti. Perché sì. Non si premia un governo per amore di un premier, ma per amare un premier che è governato dall'amore. Cosa succede? Cos'è? Non gliel'ho detta bene. Ma no, ma guardi che non era male. Aspetti, era che ci riprovo. Cosa c'è? No, non ci riprovo, va bene ma, così. Ma cos'era? Cos'era? No, questo era Renzmaker favoloso. Senti, invece, sì. Secondo te la coppia dell'anno qual è? Dunque, la coppia dell'anno, non capisco perché sia così chiacchierata, ma è la coppia, non ho capito bene il lavoro che fa una delle due persone della coppia. Questo Fedez, che so che non sai qualche lavoro fa. Fedez okay. È grandissimo. E la Ferragni. Ma come non conosci la Ferragni? È carina, ho visto. Molto è carina. Bellissima. Fa la fashion blogger, quello per cui tutti dicono... È la fashion blogger. Come si deve... Com'è possibile che una che non si capisce che lavoro faccia, però guadagna così tanto... Fa la fashion blogger. È e loro sono lei fidanzati. È la fashion blogger. Sì, sono fidanzati. Certo che qualcuno ha detto, però un'operazione mediatica. Io credo nell'amore. Io credo nell'amore in genere. Non si dire. Credo in genere proprio. In genere. Chissà se Fedez la Ferragni credono nell'amore. Intanto credono nella famiglia. Hanno fatto un video dove c'è la siccome è Natale, c'è la mamma di Fedez, che tra allora, l'altro ha 25 anni. La mamma di Fedez è una signora che dimostra 10 anni meno di me. Ma quindi Fedez quanti anni ha? Fedez è molto giovane. Allora, cosa stavano facendo? Stavano usando Instagram Stories. Yeah. Cioè che è praticamente quella roba che ti propone che con il più. Esatto. Sì. E praticamente tu fai dei videini come Snapchat che poi scompaiono. E poi si autoesplodono, si autocombustano. E le persone possono le persone possono mandare dei commenti e la mamma di Fedez leggeva i commenti. Quelli solo quelli positivi su di sé. Sentiamo. Senti. Che i dissing fra rapper, il vero dissing è quello tra mia madre e Chiara Ferragni. Che Chiara mi ha vestito e a mia mamma non piace come mi ha vestito. Non ho detto che non mi piace, è sportivo e non è da sera. Una giacca di Gucci per lei è sportiva. Elegante Leo. Allora, mia mamma legge i commenti pro lei nel dissing con Chiara Ferragni. Infatti, Gucci e Fedez. Sarà anche un outfit Gucci, ma non vuol dire che sia bello elegante per forza. Ma vedi che spontaneità, che famigliola normale, no? Simpatica la mamma di Fedez. Molto simpatica, anche la voce giovanile. Ma parliamo un po' di sport. Parliamo di sport, dobbiamo fare i complimenti, gli auguri, tutto, di Buon Natale, RadioTube porta bene, sì. Ma però annunciamolo con, non so, abbiamo scelto uno sportivo in un'intervista a un conduttore molto noto anche a Radio 24. Allora, diciamo qual è intanto lo sportivo che Daniele Bellasio ha scelto come sportivo dell'anno. Ma sì, perché è grande, perché dice sempre delle cose giuste. C'ha un sorriso stupendo, vince in sport di tutti i tipi, vinceva con le macchine, poi vince adesso le Olimpiadi, insomma è un grande. Alex Zanardi. A 50 anni è normale che nella vita di una persona ci siano anche delle cose che puoi chiamare preoccupazioni, che poi nel corso dell'anno magari non ti consentono di continuare a giocare come vorresti, quindi la preparazione per una cosa così importante diventa più complicata. Essere riuscito a farla lo stesso è stato un pianto liberatorio. Ecco, lei ha detto la fatica restituisce sempre qualcosa, mentre lo sforzo di un attimo invece non porta nulla. Cosa vuol dire? Perché quando una persona ha grandi sogni è convinta che dalla sera alla mattina questi sogni possano essere realizzati. Può anche accadere, ma molto, molto raramente, esatto. Grande. Beh, però, Alex Zanardi intervistato da Giovanni Minoli alla 7. Allora, abbiamo campione detto, vogliamo introdurre con questo grandissimo campione sportivo una persona alla quale voglio fare un sacco di complimenti. Ma per... la grande, un direttore, che è stato ospite da noi. Il direttore di Sky Sport, Federico Ferri. Ciao direttore. Ciao, non ti ciao, chiamiamo grazie. Più Federico, adesso ti chiamiamo solo direttore. No, va benissimo ancora Federico, grazie, sono contento di essere tornato. Avete ragione, sono già stato con voi l'anno scorso, mi fa molto piacere. Poi noi soltanto, ma anche essere lì con voi. Che meraviglia. Poi di recente ci eravamo visti con Federico per quella cosa bellissima che avete fatto con Federico Buffa, che per me è un altro dei personaggi dell'anno, ma di ogni anno, nello sport di ogni anno. Senti, allora, com'è questa cosa? Direttore, da poche ore, da che poche bello! Ore, nell'affrontare un'avventura del genere? Ma ti riferisci, immagino, all'affrontare non l'avventura del direttore, ma l'affrontare tutte queste ore con Federico Buffa. Sì, no, effettivamente anche quello. Scherzo, ovviamente, perché è stata veramente un'avventura splendida anche quella, ancora una volta, di avere il privilegio di poter... lavorare con un immenso talento come quello di Federico e con tutte le emozioni che ci ha fatto provare noi che abbiamo lavorato con lui raccontando Muhammad Ali, che è certamente, a proposito, uno dei personaggi del 2016, perché nel 2016 se n'è andato. Per quanto riguarda il resto, vi ringrazio, è una bella avventura, è una bella avventura per me, per Sky, perché è uno splendido posto per cui lavorare, uno splendido posto per trasmettere tanta passione per quello che facciamo, perché parlare di sport, perché occuparci di sport, perché raccontare lo sport è fantastico. Arrigo Sacchi diceva che il calcio, ma posso allargare il discorso allo sport, è la cosa più importante fra le cose meno importanti, e quindi abbiamo la fortuna di poterlo raccontare, e spesso le cose che danno più soddisfazione, le cose che ci emozionano di più sono anche quelle meno importanti, insomma. Federico, forse da direttore ti tocca essere un po' più diplomatico, però io te lo chiedo lo stesso: ci dici chi è secondo te lo sportivo dell'anno e la sportiva dell'anno? Ma certo, allora vai. Non sarò diplomatico, ti do un italiano che è Gregorio Paltrinieri. Grande. Che ha realizzato un'impresa pazzesca, perché è anche un ragazzo pulito, positivo, sorridente, un grandissimo atleta veramente, e ti dico LeBron James, in ambito mondiale, perché ci ha, a proposito di storie di sport, ha raccontato una storia pazzesca, perché è tornato a casa come in un film davvero, ha portato la sua squadra alla vittoria nella sua città, raccontandoci una storia di sport pazzesca in questo Luna Park per lo sport che è l'NBA, che regala delle emozioni incredibili con questi Superman che noi raccontiamo con Flavio Tranquillo, che è un mostro anche lui di bravura, ed è stata veramente una grande emozione. E tra le femminucce? Per quanto riguarda l'atleta, per tutto quello che ha voluto dire, ma principalmente per i meriti sportivi, ti dico Bebe Vio, perché è una grande atleta. E perché attraverso il suo essere atleta ha elevato il senso dello sport, anche dello sport paralimpico, come ti posso dire, a un valore più agonistico e meno soltanto di esempio. Perché certo è così, Bebe, sì, è uno straordinario esempio, però lei gli ha dato, con questa sua semplicità, con questa sua naturalezza, ma anche con questa sua cattiveria agonistica, gli ha dato un valore sportivo ancora più grande, dunque credo sia giusto citare lei. Bello. Federico, direttore, quando sali al comando di una macchina veloce e potente come quella, insomma, immagino che uno debba sedersi comodo, allacciare le cinture, però si immagina anche già un po' l'itinerario e il viaggio. Se tu dovessi realizzare un sogno nel cassetto nel raccontare lo sport, qual è la cosa che non hai ancora raccontato, che vorresti raccontare di più? Tutti noi abbiamo un desiderio professionale. Allora, ce ne sono ce ne sono tanti. Io ho avuto la fortuna di fare l'inviato nel 2006 con l'Italia fino a Berlino, allora da cronista, e quindi devo dirti che non ti posso dire raccontare la vittoria del mondiale perché ho già avuto questa fortuna. Mi piacerebbe, questo sì, raccontare una storia per il calcio italiano simile a quella dell'Leicester in Inghilterra, cioè poter raccontare magari con una squadra magari anche di grande tradizione, non necessariamente una sorpresa come l'Ester, che ne so, al Genoa, al Torino, l'Inter, al Verona. Tipo l'Inter che improvvisamente da settima che pum, tipo l'Ester, no? Sì. Però sull'Inter insomma possiamo dire che se ci guardiamo nel recente passato, non proprio recentissimo, nel recente passato, insomma, soddisfazioni ce ne sono state. Però sarebbe divertente raccontare una storia così, ecco, questo sì. C'è cioè una grande sorpresa calcistica, ho capito, bello, bello. Una bello. Grande sorpresa calcistica che, diciamo, ci porta anche un po' di valori in un calcio italiano che ne ha bisogno, un calcio italiano che però è pieno di ragazzi, è pieno di giovani e ci dà tante... Beh, per esempio l'Atalanta potrebbe. Bravo, esatto. L'Atalanta farebbe perfetto, bravo. Sì, nero azzurro. Ha un straordinario allenatore che fra gli allenatori è uno degli uomini dell'anno, e lo cito Gasperini, non solo Conte, non solo Ranieri, che sono altri due allenatori dell'anno, perché Gasperini ha fatto una cosa straordinaria che pochi hanno fatto, cioè da allenatore del Genoa ha saputo prendere delle distanze vere e non con quelle mezze frasi a metà, dalla parte più esagitata della tifoseria del Genoa, facendo nomi e cognomi, venendo fuori e facendosi applaudire da tutto il resto dello stadio, che ha contestato i più facilorosi e diciamo i più, non posso dire i meno sportivi, dai, violenti, perché non sarebbe corretto, ma certamente i meno sportivi. Quindi mi fa piacere citare anche lui, visto che hai citato l'Atalanta. Bello. Grazie, complimenti direttore. Al direttore di Sky Sport, grazie. Federico Ferri, ciao Federico, buon Natale, auguri, auguroni, ciao. Noi ci ritroviamo tra poco con un ospitone. Un ospitone tra poco. Qualcuno sa da dove viene questo proiettile? Perché è vero che a spararle è stato uno stronzo talebano, ma qualcuno gli ha dato il fucile. Valerio Mastandrea racconta Storia di una pallottola, un giorno a Kabul. Chiama la sala operatoria, avvisali, ne abbiamo altri tre. E questo va in radiologia, questo va subito in sala. Il radiodocumentario dall'ospedale di emergency a Kabul, con le testimonianze degli operatori. Ti puoi abituare alle conseguenze della guerra, ma non ti abituerai mai ad un'esplosione. Storia di una pallottola, un giorno a Kabul. Il web documentario su emergency.it. Il radiodocumentario, lunedì 26 dicembre alle 16:30 su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Creo Kitchens, finalmente la cucina di qualità, ora alla portata di tutti. Gruppo Lube. YouTube. Il tuo profilo Instagram è molto interessante. Selfie in casa, selfie al mare, selfie al ristorante. Mi parli dei problemi e della tua vita stressante. Vai palestra, l'estetista, giornata pesante. I nostri nuovi filtri dove cambiano le facce. Lingua fuori, in testa fiori e bocca gigante. E della tua foto dove sbocci in discoteca. Aspetta che ti mostro il can che me ne frega. Il can che me ne frega. Aspetta che ti mostro il can che me ne frega. È tutto molto interessante. È tutto molto interessante. È tutto molto interessante. Vabbè, ma così è troppo facile, perché fare il mistero, no. Vuol dire chissà chi avremo. No, chissà chi, questa puntata di Natale così importante, abbiamo un ospite importantissimo cui io avevo fatto una promessa, e adesso svergognandomi per presentare l'ospite che abbiamo qui di fianco a noi, mando in onda un vlog, senti?